Cagliari pronto. Pronti Francesco. Bolla dell'algida. Bolla dell'algida. Francesco, ti ho fatto i fogli di blocco. Francesco, ti ho preparato tutto. Anche per i piselli primavera ci vuole la promozione della posizione promo. Sto aggiungendo l'1, F351. Gianua, vieni, sì. Francesco, vieni un attimo, per favore. A tutti i cucati, zio. Avvicinati, zio. Gira. Bolla dell'algida. Ciao, ciao, ciao. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Hai sentito 4, 5, 6? Certo che ho sentito. Perché quando io abbasso e parlo, poi tu muovi e poi abbassi tu. E comunque dentro da Elena non fa disturba, perché la voce è molto alta. Adesso te lo diminuisco. Adesso mi senti forte? Mi sento forte. Forte mi stai sentendo? Oh, Pinuccio, ti sto sentendo fortissimo. Come? Pronto, pronto, mi senti? 1, 2, 3. Questi truffi? Sono a ridosso delle scale di Elena. Ho recuperato la radio trasmittente. Ok, quindi stai rientrando a casa? Sì, sto rientrando a casa. Provo ad andare al canile a vedere se si sente. Signora Sanna, non mi sembra il momento giusto. Con tutta l'umidità che c'è, sono a mal di gola. Sì, signora Carina.